Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dai dati, o meglio dal commento diffuso da Bruxelles sull'IMU, imposta che Bruxelles boccia, e adesso ne parleremo ampiamente, anche perché sarà un tema ovviamente che entrerà a pie pari nella campagna elettorale. Nel rapporto 2012 dell'Unione Europea su occupazione e sviluppi sociali, dice Bruxelles, la vecchia ICI non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà. L'IMU, cioè l'ICI nuova, deve avere un effetto invece redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo per essere più equa. E quindi l'accusa è che sostanzialmente l'IMU sia una tassa iniqua, non rispetti il principio ormai acquisito dal diritto anche tributario della progressività nella tassazione, addirittura peggio dell'ICI. Dico che entrerà nella campagna elettorale perché sappiamo il leader del PDL Berlusconi ha ribadito anche oggi che se vincerà le elezioni eliminerà l'IMU. Faccio notare che una prima parte dell'IMU fu introdotta proprio dal governo Berlusconi, questo va detto, anche se il grosso fu introdotto dal governo Monti. E la notizia arriva il giorno dopo che ieri l'Agenzia delle Entrate, quindi, anzi attraverso il Ministero dell'Economia e Finanze, ci ha fatto sapere che se le entrate sono cresciute quest'anno nei primi 11 mesi è stato soprattutto grazie all'IMU, perché l'IVA è calata di 1,8 miliardi, le imprese fatturano meno e chiaramente cala il gettito IVA. È calato anche il gettito da gioco, però le entrate sono aumentate del 3,8% grazie all'IMU, 10 miliardi di euro solo nella prima rata, e manca ancora la seconda rata, quella più pesante, complessivamente dovrebbero essere 24 miliardi di euro da un lato, e anche grazie ai bolli 3 miliardi in più. Ne parleremo subito in apertura, poi parleremo invece di un altro caso, anzi di due casi. Uno è il dato sulla disoccupazione in Europa e in particolar modo quella giovanile. Dico subito che il dato è drammatico perché nell'area euro ormai siamo arrivati a un nuovo record all'11,8%, a dimostrazione che le politiche messe in atto, è molto fastidioso dire l'avevamo detto nella vita, però bisogna anche riconoscere che è due anni che il sottoscritto, gli ospiti di questo programma sostengono che le politiche messe in atto dall'Unione Europea, fortemente filo tedesche dell'Europa del Nord, avrebbero avuto un impatto prociclico, cioè avrebbero aumentato la recessione in atto, a differenza di quanto è accaduto negli Stati Uniti, dove politiche più espansive, cioè stampare moneta, aumentare un po' di deficit e debito, hanno avuto un effetto positivo sull'occupazione. Ebbene, il rigore o rigor mortis ha portato la disoccupazione al nuovo record storico nell'area euro, 11,8%. In 12 mesi la ricetta tedesca ha creato 2 milioni di disoccupati in più. Non voglio dire che sia colpa della Germania, però è innegabile che se tu fai solo tagli tasse e non fai qualche investimento anticiclico, quindi contro la crisi, beh, è innegabile che poi questi siano i dati. 2 milioni di disoccupati in più nell'area euro. E poi andiamo alla parte, a mio avviso, più drammatica, di cui parleremo nella seconda ora del programma, e cioè la disoccupazione giovanile. Ha raggiunto il 24,4%. Attenzione che i disoccupati misurano quelli che stanno cercando un lavoro e non riescono a trovarlo. Altra cosa è l'occupazione, che è ancora peggio, perché l'occupazione prende tutti quelli che potrebbero lavorare e vede quanti lavorano, e qui scendiamo nei giovani siamo a meno del 50%. Però limitandoci alla disoccupazione, cioè chi non riesce ad avere un lavoro pur cercandolo, perché molte persone, caso tipico lo studente, la casalinga, chi si ritirano dal mercato del lavoro, non entrano più nelle statistiche di disoccupazione perché non lo cercano nemmeno, ma tra chi lo cerca ed è giovane siamo arrivati in Europa al 24,5% di disoccupati, in Spagna al 26%. Scusatemi, in Europa 24% dei disoccupati, in Spagna il 56% dei giovani, tra quelli che lo cercano, immaginatevi il dato tra quelli che in generale potrebbero lavorare, in Grecia siamo al 57%, in Italia siamo al 37%, record storico, in Francia al 27%, poi c'è la Germania che ha l'8% e ha una disoccupazione inesistente, il 5%. A dimostrazione che tutte queste politiche hanno colpito, lo dice anche Bruxelles, c'è un divario enorme tra il nord e il sud dell'Europa che si è creato in questi anni della crisi per politiche di rigore. Andavano fatte, vanno fatte, non c'è dubbio, ma di solo rigore non si vive, si muore. Notizie in breve. Parleremo però anche di un altro caso che, insomma, fa con questi dati. C'è una polemica in corso, a mio avviso assurda, ma sentiremo le due parti, tra la CGIL e McDonald's. Ricorderete che McDonald's fu anche nostro ospite un mese fa, annunciò 3.000 assunzioni in 3 anni, 1.000 all'anno di giovani, a la stragrande maggioranza contratti part time, però sempre meglio di niente. Si rivolgono soprattutto alle donne che vogliono lavorare part time perché hanno anche mansioni familiari, e ai giovani studenti che vogliono avere il tempo per studiare. Beh, c'è una polemica in corso con la CGIL che non ha apprezzato la campagna pubblicitaria della McDonald's che cita l'articolo 1 della Costituzione d'Italia, una Repubblica fondata sul lavoro, e dice che le relazioni con la CGIL sono inesistenti. Insomma, una polemica con chi potranno non piacere i tipi di contratti. Non metto in dubbio che 400-500 euro non permettano di vivere, però di questi tempi bisogna anche vedere se non vanno a colmare una domanda esistente di chi vuole arrotondare più che mantenersi. Mi sembra una polemica un po' assurda in questo periodo. Comunque sentiremo sia la CGIL che il numero uno di McDonald's Italia. La borsa nel frattempo, bene Milano, e anche di borsa parleremo sia per la vicenda Generali che per la vicenda Monte dei Paschi. Dicevo, bene Milano, negative le altre borse tranne Parigi. Parigi guadagna lo 0,16, Francoforte perde lo 0,50 come il Dow Jones, invariata Londra, e invece Milano guadagna lo 0,30% perché va bene il Banco Popolare più 3%, Mediobanca più 2,80, Mediolanum più 2,40, Unicredit più 2, bene anche ST Microelectronics più 1,90 come Salvatore Ferragamo, Azimut più 1,70, Parmalat più 1,60, Pirelli più 1,20, Fiat più 0,90. Negativa invece Autogrill, perde il 3%, Buzzi Unicem l'1,80, Tenaris meno 1,40, Pop Milano meno 1,40, Monte dei Paschi meno 1,30%. E Generali, visto che ne parleremo per il completamento di un'acquisizione, devo dire, importante, perché posiziona le Generali in maniera molto forte nell'Europa dell'Est e acquisisce una società assicurativa russa, Ingostrach, spero di pronunciarlo bene, praticamente un investimento da 2,5 miliardi. Generali ha il 51% di GPH, poi vi spiegheremo anche l'operazione, va a acquisire una quota che ancora le mancava, ma al di là di questo il titolo viene premiato più 0,77%. L'euro sul dollaro a quota 1,30,66, ancora sulle materie prime l'oro in rialzo a 1653 dollari l'oncia, il petrolio a 93,4 dollari al barile, ancora ritocchi a rialzo per i carburanti, dopo gli aumenti di ieri oggi si registrano le mosse di IP e Total Erg, un centesimo su entrambi i prodotti. Per quello che riguarda IP e invece un centesimo in più solo sulla verde per quello che riguarda Erg. Stati Uniti, nonostante la crisi, gli affitti in America continuano a salire in tutti i quattro angoli del paese. Nel quarto trimestre del 2012 il costo medio è di $1,048, più 0,6% rispetto al trimestre precedente. È la crescita più forte dal 2007. E tra le cause, l'elevata richiesta di appartamenti. Il numero di case sfitte è calato al 4,5%, il tasso più basso dal 2001. Questi sono segnali che, insomma, in America l'economia è ripartita. Poi hanno da affrontare il tema del debito dei tagli. E in testa c'è New York, dove il costo medio è di $3,000, al secondo posto San Francisco, seguita da Houston, San Jose e San Jose in California. Poi c'è una vicenda bellissima che riguarda il colosso assicurativo AIG, quello che era fallito, era il colosso numero uno anche nei mutui, e l'ha salvato il governo americano. Ricorderete, AIG fu salvata con $182 miliardi dal governo americano. Bene, sembra un po' la favola di Esopo dello scorpione e della rana, perché lo scorpione AIG, dopo essere stato salvato dal governo americano, adesso sta pensando di fare una causa al governo stesso per aver ingannato i suoi azionisti. Una causa da $25 miliardi contro il governo. Nella causa non è che si affermi che il salvataggio non fosse necessario, ma si mette in evidenza l'onerosa natura del salvataggio, ha privato gli azionisti di decine di milioni di dollari e violato il quinto emendamento, che vieta di prendere a proprietà privata per uso pubblico senza un compenso. Sì, faccio notare che senza quel salvataggio loro chiudevano. Dopodiché, facile dirlo quando ti hanno salvato, mettiamola così. Andiamo invece all'Europa, perché il Fondo Permanente di Salvataggio Europeo, ISM, ha debuttato oggi sui mercati. È il fondo che è arrivato, che è nato dopo una lunga trattativa, un parto difficilissimo tra i paesi europei, e ha venduto, oggi ha debuttato vendendo 1,9 miliardi di euro di debito a 3 mesi con tassi negativi, poco dopo che il Giappone ha assicurato che continuerà a investire. La domanda, secondo la Bundesbank, è stata pari a 6 miliardi contro i 2 miliardi offerti. E dopo quasi 3 anni l'Irlanda torna sul mercato del debito, cioè torna a offrire, a chiedere, per meglio dire, credito ai creditori di finanziare il suo debito. Il governo di Dublino sta infatti collocando un'obbligazione a un BOT, un BTP per meglio dire, a 4 anni con scadenza nel 2017. Dovrebbe raccogliere tra 1 e 2 miliardi di euro, il rendimento è al 3,35% e l'asta è gestita da Barclays, Danske Bank, Royal Bank of Scotland, Societe Generale. Ma l'Irlanda diventa in questo modo il primo paese beneficiario di un programma di salvataggio, perché è stata aiutata non poco l'Irlanda, ma è il primo paese che riesce con le proprie forze poi a tornare sul mercato del debito. Passiamo alla Germania, vedo che anche che c'è chi scrive, sì, però la Germania grazie al rigore ha avuto la disoccupazione bassa. Guardi, adesso non voglio sembrare antitedesco, ma non è esattamente così. La Germania fu con la Francia il primo paese nel 2003, vado a memoria, a sforare i parametri di Maastricht e quindi a sforare il tetto sul deficit. Non si beccò le sanzioni perché, tra l'altro, vari paesi, tra cui l'Italia, ritennero di dire, vabbè, stiamo morbidi con la Germania, era il ministro Tremonti e il presidente del Consiglio Berlusconi, perché in questo modo poi sarà più morbida con noi, perché la Germania fu il primo paese a sforare il patto di Maastricht, quello che regola l'euro. Questa è storia, non sono opinioni. Sforò il deficit, poi ha fatto i compiti a casa, ha messo i conti in ordine, ha avuto un tempo un po' più lungo e in un periodo in cui l'economia cresceva. Abbia pazienza, un conto è rimettere a posto i conti quando il tuo stipendio aumenta e quando l'economia cresce, un conto è farlo in piena recessione con vincoli da tutte le parti e con l'attacco ai debiti sovrani, con lo spread a 540, con i titoli di Stato che non vengono comprati, no? È un po' diverso farlo nel 2005 o farlo nel 2011, lo dico. In questo momento la Germania è l'unico paese, abbia pazienza, che non ha dovuto fare nessun taglio, nessun aumento di tasse, nessuna riduzione della spesa, si è avvantaggiata di un euro che rispetto al marco va bene perché è più competitivo del marco quanto a valore, e poi è stata bravissima in questi anni a fare mille cose che noi invidiamo ai tedeschi, ma non mi si venga a dire la Germania ha fatto gli stessi sforzi che abbiamo fatto noi, solo che li ha fatti bene. Non ne ha fatto alcuno sforzo dal 2009 al 2012 la Germania, è una grandissima cavolata. Anzi, ha beneficiato, essendo il paese più virtuoso, di tutti i capitali che fuggivano da Spagna, Italia, Portogallo e Irlanda e andavano in Germania e preferivano avere rendimenti negativi pur di parcheggiarli nel Bund, per cui ha avuto un beneficio indiretto dalla crisi del Sud Europa. Comunque la Germania, dicevo, c'è un netto calo nelle esportazioni tedesche a novembre, ma siccome c'è un grosso calo anche delle importazioni, la bilancia commerciale tedesca è in rialzo a 17 miliardi di euro. Su base annua le esportazioni restano stabili. Per quello che riguarda sempre l'Europa, c'è stato un incontro oggi tra il premier greco Antonis Samaras e la cancelliera tedesca Angela Merkel. La Grecia ha detto, la Merkel ha ribadito anche Samaras, sta facendo progressi e sforzi enormi e adesso servono investimenti per contrastare la disoccupazione giovanile. La Merkel ha promesso un impegno per creare lavoro, per sostenere la Grecia nel contrasto alla disoccupazione. E tra l'altro, visto che ne parleremo più avanti, la disoccupazione, i dati che citavo all'inizio, per quello che riguarda l'Italia, il tasso di occupazione, cioè chi lavora tra tutti quelli che potrebbero lavorare, anche chi non lo cerca, è ai minimi dal 1992, e cioè da quando è iniziata la statistica di questo dato, per cui da sempre. E in 5 anni ci siamo bruciati 740.000 uomini, con le donne va anche peggio, al lavoro, cioè ci sono 740.000 uomini in meno che lavorano in questo paese in 5 anni. Se sembra la strada giusta questa. Volete sapere dei generali, ne parleremo più avanti, ma comunque il generale ha acquistato in 2 tranche il 49% dell'alleanza nell'Europa dell'Est stretta con Peter Kellner e sale al 100% i generali PPF Holding, e poi ha anche acquisito il 38, avrà tutto il 38,5% della compagnia russa Ingostrak, che oggi divideva, la cui partecipazione divideva con l'imprenditore ceco. Prima di passare ai nostri primi temi, IMU da un lato, ma poi anche le generali, torna la rubrica ma cos'è questa crisi, perché insomma la raccontiamo anche scherzandoci sopra, purtroppo c'è poco, pochissimo da ridere. Facebook per partecipare al programma e il numero per gli sms è 349-238-6666. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, nonostante il buco sanitario di questo paese, attribuibile principalmente a 3-4 regioni, a Napoli, per la precisione all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, ieri hanno diramato una circolare, l'hanno diramato i vertici sanitari, con cui è stato disposto per oggi lo stop a tutti gli interventi, ad eccezione di quelli d'urgenza. Motivo? Mancano le garze. Mancano le garze. Dalla ASL Napoli 1 non arriva nessun dettaglio sul disservizio, ma rassicurazioni che stanno provvedendo a risolverlo. Intanto però i medici hanno lamentato una situazione ai limiti del sopportabile. È da almeno un mese, ha detto un chirurgo, che si va avanti in questa situazione. All'occorrenza siamo costretti a chiedere in prestito le garze agli altri ospedali. In prestito, non penso che si possa ridare, lavare e ridare, però insomma sono 3 le sale operatorie, 2 dedicate alle operazioni programmate, 1 per le urgenze di qualunque tipo, da pazienti oncologici alla neurochirurgia. A mancare sono soprattutto le garze laparotomiche, che sono importantissime per la chirurgia addominale. Ma mi chiedo, con il buco della sanità che ha fatto anche la Regione Campania, come facciano a finire le garze. Un'idea ce l'ho, ma oggi me ne sto zitto. E poi sono sempre segnali della crisi strisciante, ma che poi morde. Pensate che in Italia cresce il numero di persone che ha messo in affitto una porzione della casa in cui vive. Una volta era anche una commedia, no? Separati in casa. No, qui siamo proprio all'affittacamere, che al boom degli affittacamere, come si chiamava una volta, cioè affitti una parte di casa tua. In un anno sono aumentate del 14% e del 26% negli ultimi 2 anni. L'indagine l'ha compiuta immobiliare.it sugli annunci pubblicati per un anno e fino a 2 anni fa. E insomma, in particolare per la prima volta in assoluto i lavoratori superano gli studenti. Tipicamente una volta chi chiedeva di prendere una stanza, magari in un'abitazione già affittata, era uno studente. No, i lavoratori sono più degli studenti, il 58% sono già lavoratori contro il 42% degli studenti. In aumento anche il fenomeno degli uffici condivisi. A concedere in locazione stanze ad uso ufficio sono soprattutto imprenditori o piccole società, per ragioni diversi, nella maggior parte dei casi perché hanno ridotto il personale, cioè licenziato, e quindi si liberano, ahimè, scrivanie e sedie. E poi sinergie di spazi, di tecnologie, di personale, col fine ultimo di avere una riduzione per tutti i costi operativi. Nel frattempo, mentre noi ragioniamo di questo, da Bruxelles, come anticipavo, arriva una notizia che verrà utilizzata sicuramente in un modo o nell'altro per questa campagna elettorale. Eh sì, perché nel rapporto 2012 su occupazione e sviluppi sociali l'Unione Europea ci boccia. E ci spiega tutto il nostro, io già anticipavo alcune cose, boccia l'IMU, dicendo che l'IMU è anche peggio, è anche più diseguale dell'ICI, che non è che fosse questa gran bella tassa, però non aveva impatto sulle disuguaglianze e aumentava leggermente la povertà. L'IMU invece deve essere modificata in senso più progressivo per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, che così non ha. Sergio Nava, buonasera. Buonasera. Allora, che cos'è che ha fatto così mettere sotto il mirino la nostra IMU, tanto amata IMU, sì, che allora, abbiamo appena finito di pagare, chi ha una casa? Allora, dunque, innanzitutto chiariamo il contesto. Il contesto è quello di un rapporto di quasi 500 pagine sulla povertà e sugli sviluppi sociali in Europa, un rapporto tra l'altro abbastanza duro, perché insomma ci mette tra i paesi ad alto rischio povertà. È facile entrare in povertà, ormai in Italia è difficile uscirne. Però il controverso capitolo sull'IMU è un box, pagina 265, ovviamente, come hai detto tu, farà parlare molto, ed è un box da leggere con molta attenzione, perché forse in questo caso la stampa italiana è andata giù un po' troppo pesante, nel senso che non è una bocciatura, leggere bene, dell'IMU per sé, o meglio, è un ritratto in chiaroscuro dell'IMU, è una analisi che la Commissione europea fa, dà dei meriti, tra virgolette, all'IMU e suggerisce come migliorarla progressivamente. Andiamo a vedere, dice, l'IMU ha incluso alcuni aspetti di equità fiscale, ad esempio, cita la Commissione europea, la detrazione di 200 euro per la prima casa, la detrazione aggiuntiva per i figli a carico, una differenza notevole nella tassazione tra residenza principale e secondaria. Questo tra i lati positivi, secondo Bruxelles. Tra i lati negativi, come dire, progressivi da migliorare, dice, occorre aggiornare i valori catastali, lo si è fatto in parte ma occorre farlo ancora, occorre introdurre detrazioni non legate alla tassazione sul reddito dei contribuenti e occorre anche definire meglio residenza principale e secondaria, questo al fine di rafforzare la sua progressività. L'impressione è che le agenzie di stampa hanno un po', si sono un po' affrettate nelle ultime ore a dare una bocciatura a tout court da parte della Commissione europea dell'IMU, ma leggendo bene questo box, come poi si è fatto, è un po' più in chiaroscuro in realtà il ritratto. Sì, devo dire che poi leggendolo si nota anche come la vera critica, e come dare torto a Bruxelles in questo caso, è che se tu non aggiorni quello che è il catasto di questo paese, esatto, è chiaro che tu vai a applicare un'IMU ridicola o sbagliata a case di grande valore, perché nel catasto risultano zone magari non di pregio nei catasti vecchi, e bastoni chi si ritrovano con una casa che tuttora resta molto alta nel catasto, no? Per cui quello è il vero problema e la vera critica che tu devi fare in contemporanea al ragionamento catastale, o perlomeno cercare di farlo. Tra l'altro, appunto, chiede Bruxelles che vengano introdotte deduzioni non basate sul reddito e, come ricordavi tu, migliorate la definizione di residenza principale di quella secondaria. Resta però molto forte, Sergio, nel rapporto, l'allarme. In Italia il rischio enorme di trappola sulla povertà e, aggiungo anche, improbabili miglioramenti socio-economici nel 2013. E questa è effettivamente la, come dire, la considerazione più pesante, più grave che si può fare. È una considerazione anche di quello che ha significato la crisi per l'Italia in questi ultimi anni. Come dicevo prima, è facile entrare in Italia in povertà, è diventato più facile, è sempre più difficile uscirne. Questo è forse la considerazione più amara che fa Bruxelles dopo ormai 3 anni di crisi. E su questo sicuramente il prossimo governo dovrà ragionare. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Ti ho messo il gufo, Sergio, perché effettivamente non potevo darlo a te, dovrei darlo a Bruxelles, però insomma che già siamo all'inizio dell'anno e l'Unione Europea ci venga a dire che sono improbabili miglioramenti socio-economici nel 2013. Io avevo capito però che dalla seconda, terza metà, del secondo, terzo trimestre ci sarebbe stato un giro di boa, una ripresa economica. Non vorrei che fosse un film già visto, in cui poi il secondo diventa il terzo diventa il quarto diventa il primo del 2014 e via così. È una promessa, grazie a Sergio Nava, grazie anche per averci chiarito in realtà quanto più in chiaro oscuro sia questo rapporto che non boccia Tukur Limu. Temo che poi nella campagna politica queste distinzioni si perderanno, ma è solo un mio timore. E da Limu passiamo alle generali, perché in realtà ci sono gruppi italiani che ci siamo occupati di Fincantieri, che ha fatto una bellissima acquisizione. E oggi ci occupiamo di un altro gruppo italiano che va a comprare all'estero, le generali, su due fronti, uno russo e uno in realtà molto più legato complessivamente all'Europa centro-orientale, all'est. Allora, le prime mosse di Mario Greco, l'amministratore delegato delle generali, mosse attese, però insomma la direzione mi sembra molto chiara: puntare verso l'est Europa, inteso sia come est Europa in senso stretto che anche come Russia. E con noi in studio la collega del Sole 24 Ore, Laura Galvani. Laura, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Due operazioni, dicevo, oggi delle generali, ossia ha acquistato in due tranche il 49% dell'alleanza, è salita al 100% dell'alleanza con Peter Kellner, ed è salita al 100% di generali PPF Holding, valore 2,5 miliardi. E poi ne ha fatto un'altra invece che riguarda la compagnia russa Ingostrack. Se ci puoi raccontare che cosa, dove è salita, perché poi non è che le abbia, non è il primo ingresso, è salita a livello di controllo nelle due società. Allora, di generali PPF Holding aveva già di fatto il 51% e acquisterà questo 49% in due tranche, una immediatamente più o meno a marzo che la porterà al 75% e gli darà ampi poteri di governance, e l'altro 24% invece a dicembre 2014. Solo questa operazione qua le costa più o meno 2,5 miliardi di euro, dei quali la metà evidentemente li pagherà subito e la parte restante nel 2014. Con questa operazione qua di fatto Generali si consolida nell'Europa orientale. Era di fatto un'operazione già scritta, nel senso che Kellner aveva questa opzione di vendita della propria quota per luglio 2014, si è deciso di anticipare di fatto l'acquisto. Questo ha di fatto diversi effetti: uno, quello di chiarire fin da subito quella che è la strategia di Mario Greco. Greco stamattina, parlando agli analisti, ha chiarito che continuerà le dismissioni in America e evidentemente a questo punto passa dall'America all'Europa dell'Est. Collegato a questa operazione, che riguardava sempre comunque l'alleanza con PPF, quindi con Peter Kellner, c'è l'acquisto del 38,5% di Ingostrack, che è questa compagnia assicurativa russa che in realtà a generali fino adesso ha dato più grattacapi che altro, però può essere un'opportunità, nel senso che con PPF non è mai riuscita a sfondare sul mercato russo. Acquistando e potendo gestire direttamente questo 38,5%, c'è evidentemente la speranza di Greco di provare a incidere anche su un mercato molto difficile qual è quello russo. Allora, utilizzo alcuni sms per girarti una domanda. C'è chi dice, bene, Generali punta sull'est Europa. Devo dire, se uno volesse introdurre anche un elemento storico, che Generali nasce come compagnia assicurativa dell'impero asburgico, Trieste allora era dell'impero austro-ungarico, e quindi torna alla sua vocazione originaria, lo per sguardo definizione votata ad est. Ad est, diciamo, in ciò che era l'Austria Felix di una volta, e come tutti gli stati dell'impero austro-ungarico. Però al di là della nota storica, c'è chi scrive, non vorrei che le generali commettessero lo stesso errore di Unicredit ai tempi di Profumo, quando si allargò troppo ad est. A parte il fatto che non sono d'accordo che l'Unicredit abbia fatto solo errori all'est, però detto questo... Detto questo, la presenza di Generali nell'Europa dell'Est è già una presenza importante, perché basta guardare i numeri. Attualmente più o meno il 10% del risultato operativo delle Generali arriva dall'Europa orientale, il 10,4% dei premi danni arriva dall'Europa orientale e anche il 3,5% dei premi vita. Quindi la presenza all'est delle Generali è indiscutibile. Questo è un evidente rafforzamento. C'è da dire che è un evidente rafforzamento legato anche ai numeri che recentemente Generali PPF Holding ha espresso. Nei sei mesi ha fatto 270 milioni di risultato operativo, più o meno. Nei nove mesi i premi sono continuati a salire in un contesto evidentemente difficile, perché, come dire, certo, il mercato assicurativo non è in espansione. Però sono economie che vanno meglio dell'area, diciamo, italiana, soprattutto per i Generali. Sì, in questa fase sì, quindi come dire, evidentemente Greco prova a sfruttare, pensa di poter cavalcare le potenzialità che questo mercato potrebbe offrire. Ancora, tra l'altro su questo Greco ha anche affermato, appunto, non abbiamo cambiato opinione sulle dismissioni, ne parleremo meglio lunedì nel corso dell'Investor Day sulla Strategic Review. Comunque, insomma, da quello che tu ci hai fatto capire, lui invece continuerà a ridurre le partecipazioni negli Stati Uniti o chiuderle proprio? Beh, lui ha avviato un pacchetto di dismissioni che comprendono alcuni asset americani. Questa mattina ha confermato che su quegli asset americani è stato dimostrato interesse e che evidentemente si intende proseguire sulla fase di dismissione, quindi credo che quello sarà il canale, insomma. Grazie alla collega del Sole 24 Ore, Laura Galvagni. E adesso c'è la borsa e poi parliamo di disoccupazione e di disoccupazione della vicenda CGL McDonald's. E allora, con Deadmau5, no, oggi non c'è niente di cui essere così negativi in borsa, ma è un po' di giornate che la borsa va bene, ha fatto più 8 nel 2012, almeno quello. Borsa sia! Più 0,33% Milano, invariata Parigi, meno 0,50% Francoforte, meno 0,13% Londra, meno 0,50% l'America. Bene, il Banco Popolare più 3,5%, Mediolanum più 2,70%, Mediobanca più 2,5%, Salvatore Ferragamo più 2,1% come Unicredit, ST Microelectronics più 1,90% come Azimut e Parmalat, l'1,30% la guadagna Pirelli, lo 0,80 Fiat Industrial, quindi camion e trattori, e Generali Assicurazioni, appunto, più 0,80%, male Autogrill, meno 3%, Buzzi Unici meno 1,70 come Tenaris, la Popolare di Milano perde l'1,33, Fiat l'1,20, Monte dei Paschi pure l'1% lo perde in pregilo. Leonora Michele, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Al di là di Generali, io ragionerei ancora sul Monte dei Paschi, che comunque resta, perde l'1,20%, ma ha guadagnato più del 33% nelle ultime da Natale. Ma soprattutto metterei come contrasto, da un lato, l'andamento oggi del Banco Popolare e anche di Mediobanca, e dall'altro invece Autogrill, meno 3%. Sì, le azioni delle banche questa mattina avevano iniziato un po' tutte deboli, poi si sono un po' riscattate, hanno iniziato a salire. A metà giornata saliva anche la stessa banca Monte Paschi di Siena, e poi sul finale hanno chiuso contrastate, come hai detto tu. MPS ha perso oltre l'1%, d'altra parte i titoli si attestano a 0,27 euro, hanno guadagnato circa 10 centesimi nell'arco delle ultime sedute, con rialzi cospicui soprattutto ieri e venerdì scorso, dopo che è emersa la notizia, prima ci si aspettava la notizia e poi nel fine settimana è emersa la notizia di un allentamento delle condizioni di Basilea 3 che entreranno effettivamente in vigore dal 2019. Peraltro, per assunto, va detto che sono andate bene le banche un po' in tutta Europa. Oggi MPS sono scattate un po' di prese di beneficio, ma il resto delle banche sono andate abbastanza bene, più 3,5 il Banco Popolare. Oggi inoltre si sono risvegliate anche le azioni di Mediobanca, che hanno chiuso in progresso del 2,5%, merito anche del fatto che c'è stata la notizia che avete ampiamente commentato su Generali. Ricordiamo che Mediobanca è azionista di Generali. Per quanto riguarda Autogrill, invece, come hai notato tu, ha perso il 3%, è stato uno dei peggior titoli del FTSE MIB per tutta la seduta, e questo perché innanzitutto ci sono stati alcuni giudizi di analisti che hanno raccomandato cautele, che soprattutto sono stati un po' il pretesto per prendere profitto. Ricordiamo infatti che le azioni da fine novembre ai giorni scorsi hanno guadagnato circa il 25%. Inoltre, oggi è stato reso noto l'andamento del traffico aereo negli Stati Uniti. A novembre è salito dello 0,9%, ci si aspettava un po' di più, e quindi anche in questo caso è stato un pretesto per prendere profitto. Ricordiamo che Autogrill è molto esposta negli Stati Uniti, negli aeroporti soprattutto. Sì, perché l'Autogrill fornisce poi servizio negli aeroporti americani, e il 50% del fatturato, se vado a memoria perché magari è un po' cambiato, è proprio in dollari. Andiamo avanti, Telecom e IMSI. IMSI vuol dire Roberto Colaninno, vuol dire Piaggio, ma anche la partecipazione del 7% in Alitalia. Ieri ne abbiamo parlato a lungo. Mi sembra che il mercato continui a scommettere che qualcosa cambierà, visto che il lock-up, la clausola che obbliga i soci a stare assieme, scade il 12 gennaio. Anche oggi IMSI guadagna? Sì, infatti è da ieri che le azioni sono ben comprate. Questa mattina facevano molto meglio, hanno chiuso in progresso del 2,3%, ma anche i volumi sono in rialzo. Evidentemente il mercato si aspetta che qualcosa possa accadere. Poi in discrezione di stampa hanno parlato di trattative con Air France, c'è stata la smentita, ma c'è chi in borsa evidentemente continua a carezzare l'ipotesi che possa essere ceduta la quota del 7%. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece, come hai detto tu, Telecom Italia, le azioni anche oggi hanno perso lo 0,22%, i titoli continuano a soffrire, stanno a livelli bassi, 0,69 euro. È scattato un po' il conto alla rovescia per quello che sarà il consiglio di amministrazione del prossimo 17 gennaio, che dovrebbe fare il punto soprattutto sulla cessione della controllata Telecom Italia Media, che però sembra sempre più in salita. Poi il 7 di febbraio ci sarà anche il consiglio di amministrazione sui conti del 2012, e evidentemente, se non verrà venduta Telecom Italia Media, anche un aggiornamento del piano industriale, visto che a quel punto sarà difficile che siano rispettati i target, soprattutto sul debito. Ricordiamo che i vertici volevano chiudere l'anno con un debito inferiore a 28 miliardi, attorno a 27,5 miliardi, ma mettendo in conto anche la cessione di Telecom Italia Media. Ultimo dato, Mediaset va bene anche oggi, più 0,60%. Quanto ha guadagnato il titolo da quando Berlusconi è rientrato in politica, cioè il 10 dicembre? Ha guadagnato un bel po', infatti ha inanellato un rialzo quasi dietro l'altro, mettendo a segno complessivamente poco meno del 30%, il 28%. Poi dai minimi di metà novembre, quando sono stati resi noti i dati del trimestre, la prima trimestrale in rosso della storia dell'azienda, i titoli hanno addirittura recuperato il 50%. Grazie, onorevole Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dicevo, ampia pagina adesso dedicata, che ci accompagnerà fino alle 18.30, al mondo del lavoro e anche a come si muove il tema dell'occupazione nel nostro paese. Strano, strano assai. Vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye, mamma mia. Eh sì, è uno strano paese l'Italia, perché da un lato commenteremo fra poco, già li ricordavamo in apertura, i dati, ahimè, record sulla disoccupazione, non solo a livello normale, a livello, diciamo, inclusi tutti, è record nell'area euro. In Spagna appunto siamo al 26,6%, in Grecia al 26%, in Italia all'11%, in Francia al 10,5%, in Germania al 5,5%, ma la cosa che più fa impressione di nuovo è la disoccupazione giovanile, a dimostrare per l'ennesima volta che questa crisi si è scaricata su chi il lavoro lo aveva appena trovato, lo stava ancora cercando. La media nell'area euro del 24,4%, ma in Spagna siamo al 56%, e attenzione che la disoccupazione misura chi sta cercando il lavoro ma non riesce a trovarlo. Ancora più alto sarebbe il livello della occupazione, non occupazione, cioè di tutti quelli che non lavorano avendone l'età e il diritto. Ma dicevo, disoccupati giovani in Spagna al 56,6%, in Grecia al 57%, in Italia record da sempre il 37%, Francia 27% e poi Germania 8%. E di questo ci occuperemo dopo, nella prossima parte del programma. Dicevo, strano paese d'Italia, perché mentre ci preoccupiamo di questi dati scatta una polemica molto strana, forse molto italiana, tra la McDonald's Italia e la CGIL. Ricorderete che ne parlammo anche in questo programma. McDonald's un mese fa ha annunciato di voler assumere 3.000 persone entro 2015, di cui 1.100 nel 2013. Aprirà 100 nuovi ristoranti, la maggior parte in franchising, e i nuovi posti prevedono nella stragrande maggioranza dei casi un contratto di inserimento di apprendistato per giovani da 18 a 29 anni con durata media di 36 mesi. La metà di queste assunzioni sarà nel centro-sud. E però sono piovute le critiche del sindacato. Dicevo, intanto il sindacato lamenta un monte ore sempre più ridotto, fino a qualche anno fa 30-40 ore a settimana, oggi 16-20 ore a settimana, per uno stipendio mensile di 400 euro, meno di 5 euro all'ora. Sono previsti turni di 15 giorni, ma la mente al sindacato avviene solo nei punti vendita con più clientele. Negli altri la flessibilità è estrema, i tempi di preavviso ridottissimi e obbligati praticamente i turni notturni e nei giorni festivi. Ma dall'altra la Philcams CGIL ha anche attaccato la pubblicità, la campagna pubblicitaria su TV e giornali, che ha fatto McDonald's proprio su queste assunzioni, dicendo: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, 3.000 nuovi posti li mettiamo noi. Ha detto la Philcams CGIL: si utilizza in modo strumentale il principio della Costituzione mentre l'azienda si sottrae in maniera sistematica ad ogni confronto sul contratto integrativo nell'ambito di un rapporto con le organizzazioni dei lavoratori pressoché inesistente. Quindi dice: McDonald's utilizza la Costituzione in maniera impropria per farsi pubblicità e nel frattempo non ha alcun confronto con le parti sindacali, un confronto da cui si sottrae in maniera sistematica. Allora, grazie per averci raggiunto in studio l'amministratore delegato di McDonald's Italia, Roberto Masi. Buonasera. Pronto? Buonasera. Eccoci, sei in viva voce, le chiederei di eliminare la viva voce. Abbiamo raggiunto nel frattempo, l'ha fatto la nostra Valeria De Rosa, il segretario della Philcams CGIL Fabrizio Russo, che devo dire ricorda comunque come vi sia una buona notizia nel vostro piano di assunzioni, ma mette dei ma. È evidente che non si possa non esprimere soddisfazione ed apprezzamento nei confronti di una qualsiasi impresa che crei occupazione. Però è altrettanto evidente che una volta che si crea occupazione è necessario analizzare di che occupazione si sta parlando. La stragrande maggioranza dei lavoratori McDonald's ha un contratto di lavoro a tempo parziale di poche ore settimanali, con evidenti ripercussioni rispetto alle retribuzioni percepite, ed è impensabile sostenere che questo avvenga esclusivamente per loro scelta, e questo sicuramente è uno dei temi. Però a questo proposito McDonald's sostiene che ciò deriva dal tipo di legislazione italiana che impone dei vincoli che loro non possono accettare se non attraverso contratti part-time. non è, diciamo, una ricostruzione del tutto corretta. In realtà la legislazione e il contratto collettivo di riferimento contengono tutti gli strumenti per fare in modo tale che si possa discutere di rapporti di lavoro che non siano necessariamente a tempo parziale, questo non c'è dubbio. La seconda questione attiene al modello di relazioni sindacali che McDonald's intende perseguire. Certo, presentare un piano di investimenti di questa portata attraverso degli spot non facilita il confronto, su questo non c'è dubbio. Senta, però, per quel che riguarda, diciamo, sempre l'occupazione, è come dire, indubbio che questo tipo di contratti possano facilitare tutta una serie di categorie, tra cui anche gli studenti. Sì. Adesso anche qui mi sembra che ci siano due dati spesi dall'azienda. Il primo dato riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale e credo che ci si attesti intorno all'80%. Viene speso poi un ulteriore dato che mi sembra sia intorno al 30%, che è quello relativo ai lavoratori studenti. E quindi adesso per sottrazione si determina una percentuale che sta intorno al 50% e sono quei lavoratori che presumibilmente avanzano una rivendicazione rispetto al fatto che si consolidi loro l'orario di lavoro. Quindi comunque lei mi sta dicendo che chi lavora in McDonald's vorrebbe condizioni di lavoro diverse, cioè questo a voi risulta? Su questo non c'è dubbio. Questo è uno dei temi portanti delle rivendicazioni sindacali da qualche decennio a questa parte. Adesso è vero che negli ultimi anni ciclicamente McDonald's esce con queste campagne mediatiche molto, molto enfatiche. In realtà l'azienda è presente sul mercato da diversi anni, è un'azienda fortemente sindacalizzata nella quale il sindacato è fortemente rappresentativo, anche dei lavoratori anagraficamente più giovani, nonostante qualcuno sostenga il contrario, e le rivendicazioni da parte nostra sono sempre state orientate in questo senso. Con scarsi risultati da parte dell'azienda, immagino, nel confronto. Scarsi risultati, perché non c'è alcuna relazione sindacale. Questa è una delle poche aziende del settore, stiamo parlando di multinazionali con le quali non c'è alcuna relazione sindacale a livello nazionale ed è una delle poche aziende, se non l'unica, ad essere sprovvista di contrattazione integrativa, come si diceva, nonostante sia una delle imprese nelle quali il sindacato è fortemente rappresentativo. Allora, dottor Masi, in quanto amministratore delegato di McDonald's Italia, vediamo se ho ben capito. Partiamo dalla prima accusa sotto traccia, cioè la CGIL e Philcams dice siamo contenti, ma ve ne state approfittando di questa crisi, perché è inutile girarci attorno. Cioè l'accusa sotto traccia è fate contratti, tra virgolette, capestro, comunque molto svantaggiosi, perché tanto con la disoccupazione che abbiamo visto, uno piuttosto che saltare dalla finestra mangia con la minestra. No, allora assolutamente no, io onestamente sono stupito di queste affermazioni e che vengano proprio dalla Philcams CGL. Allora, noi i contratti che facciamo li facciamo così da ormai da decenni, nel senso che è un po' il nostro business model, come è strutturato e come lo stiamo impostando in Italia e anche all'estero. Quindi provo a spiegarglielo. Noi oggi abbiamo 2 su 3, quindi il 67% per la precisione, di contratti part-time in essere sugli attuali 17.000 collaboratori, i restanti sono full-time. Allora, dire e denigrare un po' il part-time oggi mi sembra una discussione nuova e che negli ultimi anni non avevo assolutamente mai sentito. Pensavo che il problema e quello che dovessimo criminalizzare fosse la mancanza di posti di lavoro, l'alto tasso di disoccupazione tra i giovani, l'articolo meno 18, la flessibilità in uscita e in entrata. Le 18:06, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e siamo in collegamento con l'amministratore delegato di McDonald's Italia perché, ripeto, perché si fosse perso la prima ora del programma, nel giorno in cui l'Europa ci dice che la disoccupazione e soprattutto quella giovanile in Europa ha nuovi record, in Italia pure, ne parliamo tra un attimo, beh, scatta una polemica tra McDonald's che annuncia 3.000 assunzioni in 3 anni, 1.000 all'anno, e la FISM CGIL sui tipi di contratti che vengono proposti, oltre che sulla campagna pubblicitaria. Dunque, Masi, prima dell'interruzione, diciamo, le critiche del sindacato riguardano anche un uso eccessivo, o ritenuto eccessivo, dei contratti part-time. Un monte ore che scende da 40 a 16-20. I turni, il preavviso sui turni, che in realtà dovrebbe essere di 15 giorni, ma per le realtà più piccole, i negozi più piccoli, dicono che il preavviso sia minimo, che il turno al sabato e il notturno è quasi obbligatorio. Insomma, sotto traccia c'è l'accusa che voi sfruttiate questa situazione di difficoltà e disagio nell'occupazione per fare contratti capestro, dai. Se vogliamo parlare di part time, io non lo criminalizzerei affatto. Per quale motivo? Per una serie di motivi. Il primo è che noi ci rivolgiamo a un mondo del lavoro che ha altre esigenze che probabilmente oggi la Fieldcamps non ha individuato o attratto, che sono lavoratrici donne. Lavoratrici donne, le posso assicurare, perché sono da noi circa il 60% del nostro organico e sono maggioranza part-time, ci richiedono di lavorare part-time o su 2 giorni a settimana o su 3 o su 4. Quindi abbiamo avuto anche degli esempi gestiti proprio dalla CGIL in cui abbiamo provato ad estendere gli orari a questa tipologia di lavoratrici e ci hanno detto no, mi bastano 24-30 ore settimanali. Quindi rivolgersi a questa fetta di lavoratrici io penso che non sia un male, ma anzi sia un po' avvicinarci a quello che sono le richieste delle lavoratrici donne e mamme. Seconda categoria su quale noi siamo fortemente presenti e attrattivi, che sono i studenti lavoratori. 30% del nostro organico sono studenti lavoratori. Studenti lavoratori non cercano il full time, non lo vogliono proprio, perché la loro prima ambizione è quella di laurearsi. Quindi abbiamo tanti laureandi che per mantenersi agli studi fuori casa, principalmente dal sud, che migrano verso il nord, che questo fenomeno ahimè sta ripartendo dovuto alla crisi, noi individuiamo e ci chiedono di lavorare il sabato e la domenica, perché poi dal lunedì al venerdì devono frequentare i corsi universitari e preferiscono mantenersi agli studi lavorando il sabato e la domenica. Che queste siano tipologie di lavoro da denigrare, io discuterei a lungo su questo tema, aprirei un dibattito a livello nazionale, ma soprattutto mi sembra estremamente fuori luogo in questo momento. Allora, la mia opinione non conta, ma vorrei capire un'altra cosa. C'è un'altra critica che non riguarda solo le tipologie di contratto, ma la tipologia di stipendio. Cioè a dire, va bene, voi usate part time perché vi rivolgete a un pubblico che donne, mamme, che hanno interesse a lavorare alcuni giorni alla settimana, studenti che hanno interesse a lavorare solo alcuni giorni alla settimana, però diciamo li pagate molto poco, meno di 5 euro all'ora, e con turni, l'accusa è anche sui turni, in teoria previsti turni di 15 giorni, ma nei punti vendita con minor clientela la flessibilità richiesta è estrema, praticamente obbligati turni notturni nei giorni festivi. Cioè, se riesco a interpretare, accusa di tanto voi avete gioco facile in questo momento perché tanto alta è la disoccupazione che uno, piuttosto che non guadagnare quei 400-500 euro, è disposto anche a chiudere un occhio sulla correttezza nelle relazioni sindacali. Anche questo vorrei precisarlo, nel senso, non siamo in Italia da ieri, noi siamo in Italia all'85, quindi abbiamo passato momenti anche di disoccupazione più bassa e quindi, come le dicevo, abbiamo la stessa tipologia di contratto. Poi il livello retributivo, signori, perché ci permettiamo di dire che il nostro livello retributivo è basso? Noi applichiamo quello del contratto nazionale del commercio della FIPE, che tutte le industrie o le aziende commerciali che operano nel settore della ristorazione, del turismo, degli alberghi in Italia riconoscono. Abbiamo quel contratto lì, che è riconosciuto dalla CGIL, dalla CISL e dalla UIL. Quindi dire che McDonald's paga diversamente, onestamente non lo capisco, e non capisco perché qualcuno vuole tirar fuori queste argomentazioni. Rapporti sindacali. Noi abbiamo 2 livelli di relazioni sindacali in Italia, anche questo vorrei sfatare, questo fenomeno. E onestamente, qui però sono obbligato ad aprire una parentesi, è vero che la CGIL sulla nostra azienda purtroppo non riesce a far presa, e non a caso è l'unica sigla sindacale che in questo momento ha creato questa argomentazione, le altre, se io direi anche con, in maniera lungimirante, ne stanno fuori. Cosa vuol dire che non riesce a far prezzo, mi scusi? Nel senso che, ahimè, non è rappresentata fortemente all'interno della nostra azienda. Pochi iscritti dentro direi proprio di sì, direi proprio di sì. E quindi questo, io non ne faccio una colpa a nessuno, e direi non vorrei che però strumentalizzassero questo. E non a caso le altre sighe non sono entrate in questo dibattito, io dico complimenti a loro. Parliamo di rappresentanza sindacale e di relazioni sindacali. Noi abbiamo due livelli di relazioni sindacali normali, sani e io direi proficui, che sono il livello nazionale, a quale sia la Filcams e tutte le altre sigle partecipano, abbiamo un contratto nazionale a quale aderiamo, e poi abbiamo degli accordi territoriali. Non ultimo abbiamo firmato uno un paio di mesi fa su Milano, ne abbiamo firmato uno la settimana scorsa su Bologna, uno su Taranto, uno su Napoli e uno su Roma. Ahimè, la CGIL molte volte non è presente, quindi probabilmente non conosce questi fatti. Quindi noi abbiamo un'impostazione di relazioni sindacali di due livelli, il nazionale e quello territoriale. Ahimè, probabilmente quello che capisco la CGIL ne vorrebbe un terzo. Su questo onestamente diciamo no, non abbiamo bisogno di aggiungere un terzo livello di negoziazione. Per quale motivo? Perché genereremo burocrazia, costi aggiunti e, ahimè, io direi anche un'alimentazione di certi apparati che preferiremmo che stiano già così come sono. Senta una cosa, ma lei a questo punto dà ragione a Marchionne quando dice, insomma, l'Italia è l'unico paese che, in cui le relazioni sindacali sono così difficili, in cui non si capisce dove va il mondo? Io dico che le relazioni sindacali in Italia sono difficili, non sto dicendo che siano impossibili, e ahimè possono diventare ancora più difficili se non capiamo tutti quanti, imprese e rappresentanti dei lavoratori, che stiamo vivendo una vera trasformazione del mercato del lavoro dovuta alle pressioni economiche, quindi alla delocalizzazione, alle crisi economiche e via dicendo. Ma non ho capito, ma la CGIL quindi secondo lei è un po' fuori dal mondo? La CGIL è troppo radicata su posizioni storiche e quindi, cioè, è antistorica? Direi che si dovrebbe dare una modernizzata su le situazioni economiche e le reali difficoltà che oggi a maggioranza delle aziende stanno vivendo in Italia. E ahimè non parlo per la mia azienda, perché come vede siamo in una fase decisamente positiva e di crescita. Quindi, insomma, un po' fuori dalla storia, un po' fuori da quello che è il presente, eh? E dovrebbe lavorare più vicino alle aziende per capire le loro esigenze, per creare occupazione, non per generare timore nel proteggersi. Io penso che in questo momento, lo vede, nel nostro annuncio partono le critiche. Avrei preferito, in un atteggiamento lungimirante, dire entriamo a bordo, saliamo a bordo e vediamo come gestire al meglio quelle 3.000 assunzioni. Ma i suoi colleghi, non so, di McDonald's, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, le raccontano casi analoghi? E no, decisamente più semplici, anzi purtroppo molte volte veniamo derisi quando parlo di queste tematiche con i miei colleghi, mi dicono no, tu ci stai scherzando, stai gonfiando. Quindi secondo lei, cioè, la CGIL è un caso solo italiano? E penso di sì in questo momento storico ed economico. Grazie all'amministratore delegato di McDonald's Italia, Roberto Masi. Grazie a voi. Allora, beh, vedo che le opinioni di molti ascoltatori sono diverse, questo va bene. Sì, alcuni dicono è vergognoso, operai sempre più schiavi. Il ministro Fornero oggi ha detto meglio un lavoro di qualunque tipo che nessun lavoro. E devo dire che adesso però parliamo anche di quello che sta succedendo al mondo giovanile. Il dato sulla disoccupazione è drammatico, ma quello sui giovani fa spavento, cioè 56% in Spagna, 57% in Grecia, 37% in Italia, 27% in Francia. Aldo Bonomi, oggi abbiamo preso un sociologo, spesso prendiamo anche giuslavoristi o studiosi di economia del lavoro, oggi vorrei toccare il tema anche del futuro che si sta ristringendo. Aldo Bonomi, presidente dell'Istituto di Ricerca Aster, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Buonasera a te, Barisone, e a voi. Allora, senta, c'è uno che dice che ha fatto un'intervista alla ministra delegata della McDonald's che sembrava la Barbara D'Urso con Berlusconi. Non so, penso che sia un complimento. Ha detto che l'hai fatta in ginocchio, ma non mi sembra proprio, anche perché io personalmente ho altri. Ho sentito le ultime battute, non mi pareva proprio. Vabbè, non importa. Ma invece, no, anche perché non ho nessuna debolezza per il McDonald's in generale. Ecco che scrive anche un ascoltatore: gran bella propaganda lo sfruttamento dei giovani. Vabbè, io non ho un pensiero unico su questo. È chiaro che i contratti vanno fatti anche non capestro, però sono 3.000 assunzioni col profilo che lui raccontava. Vediamo di capire se una di meglio può permettersi, andrà sicuramente a far di meglio. Cioè, comunque vorrei sentire la sua opinione, Bonomi, perché poi invece passiamo al futuro per i giovani. Qui c'è un problema di essere schizzinosi, come disse in maniera molto improvvida il ministro Fornero. C'è un problema di aziende che sfruttano il disagio giovanile, la disoccupazione giovanile. C'è un problema di radicalizzazione ideologica da parte del sindacato che dice no, devi pagare di più, no, devi dargli quello che decidiamo noi. Cioè, dov'è il... Perché mi sembra strano che col record di disoccupazione ci sia una polemica in corso tra McDonald's e CGIL, tutto qua. Ma io... Il mio atteggiamento è che per quello che è possibile... farei parlare loro. I numeri che lei ha dato all'inizio danno il quadro di una generazione perduta, quei numeri della disoccupazione, Spagna, Grecia, Francia, Italia, quindi danno questa sensazione e ho l'impressione, seconda battuta, che siamo in una società che ha smarrito la propria ombra, che non riesce più a guardarsi indietro, cioè a quelli che vengono dopo, pensa solo, ovviamente probabilmente anche nella drammaticità della crisi, a se stessa e non riesce ad avere un'idea di futuro. E direi che la cosa più logica, sia per chi, virgolette, ritiene che abbiano ragione le posizioni radicali da questo punto di vista, chi parla di schiavitù, di ritorno alla schiavitù o a forme di questo genere, ossia chi pensa invece che flessibilità e proposte, virgolette, di 3.000 posti di lavoro siano una manna, sentiamo quali sono le loro opinioni. Di nuovo in diretta, dunque, Bonomi diceva quattro profili, posizioni che emergono in questo momento dal mondo giovanile. Prego. La prima... Abbiamo 2.200.000 che sono sospesi in quel limbo in cui non studiano e non lavorano. Sono i soggetti muti e secondo me questo sarà, se non si interviene, un dramma sociale che peserà sulle famiglie che non sono più in grado di mantenerli in questo limbo e sarà una questione sociale che verrà avanti. Primo dato su cui riflettere, questi sono muti. Né studiano né cercano lavoro rispetto a questo e quindi la polemica non li riguarda. Andiamo al caso esattamente opposto. Cito i dati di una ricerca dei giovani che hanno un conto corrente bancario. Ecco, tanto per capirci, quindi quelli che possono permettersi o perché lavorano o perché, virgolette, le famiglie gli arrivano fino a questo punto, hanno un conto corrente bancario. E quindi sono giovani tra i 18 e i 34 anni, su cui ho fatto una ricerca. Allora, questi, ad esempio, il 66% di loro ha un lavoro, guadagna, ha un reddito, il 44% risparmia e ovviamente cerca di risparmiare. Il vero problema è che il loro giudizio, sul 50-50, metà di loro pensano che il loro reddito è insufficiente. Il 41% pensa addirittura che la condizione di vita della loro famiglia peggiorerà e temono il futuro rispetto a questo, hanno un grande futuro, hanno paura di due cose, della disoccupazione, il 34%, e della povertà, lo segnalano il 34% e il 33% segnalano questo, quindi diciamo questi non sono certamente ciusi, questi lavorano, questi hanno addirittura uno status simbolo del mercato come un conto corrente bancario. Però ovviamente non hanno una percezione del futuro a loro, per loro favorevole. Terzo punto, una ricerca che cito della Fondazione Toniolo, in cui invece ha fatto un ragionamento, una ricerca su i profili di coloro che studiano e rispetto invece all'attività lavorativa adeguata rispetto al loro titolo di studio. Il 47% svolge un'attività non coerente con gli studi e quindi qui emerge un problema ancora più vasto, che è quello di adeguare il sistema formativo con il sistema del mercato rispetto a questo. Certo, la cosa non riguarda i McDonald's, però ovviamente c'è un problema di mercato del lavoro e sistema della formazione. Ad esempio cito che alcuni studiosi o anche politici o anche economisti politici come l'ex presidente Romano Prodi dice ad esempio che bisogna reimpostare un ciclo formativo in cui ci sia un rapporto più stretto tra manifattura, impresa e ovviamente giovani e lavoro. In questo caso i contratti e i salari sarebbero organizzati e tutelati dal punto di vista sindacale, per tornare al ragionamento di prima rispetto a questo. Tenga presente che anche coloro che hanno, diciamo così, un reddito e un conto corrente in banca sono molto flessibili, il 76% si trasferirebbe in un'altra provincia, il 65% in un'altra regione, il 54% espatrierebbe addirittura, e il 91% è disponibile agli straordinari, l'80% a rinunciare ai consumi. No, questo a dire che non è vera questo stereotipo, alcuni per carità avranno ragione nello scriverlo, noi cerchiamo lavoratori ma non vengono, però tutti i dati alla mano, quelli che lei citava Bonomi, ma anche gli ultimi dati del rapporto che ci ha presentato, che è stato fatto da Viacom International, dimostrava come i giovani italiani sono i più predisposti ad andare a lavorare all'estero, per cui Antonio Campo Dall'Orto fu nostro ospite nel raccontarci questo, un rapporto fatto con 15.000 giovani al mondo, certo. E quelli italiani avevano il tasso più alto di chi era disponibile ad andare all'estero pur di avere valorizzato il merito. Tutto se qua. Vogliamo vedere un ultimo punto. Il quarto, sì, mi manca. Il quarto dato che ci manca è quello, sono due ricerche fatte a Roma e a Milano, diciamo così, nel terziario, negli ordini professionali, i giovani che fanno gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri, quelli che insomma sono avanti. Beh, il dato, ne cito solo uno, il 60% dei giovani professionisti si identifica con il termine precario e l'etichetta sociale di precario a Milano è il 60%, a Roma è il 70%. Allora le faccio una domanda per dare il tratto conclusivo. A questo punto c'è più vicinanza tra un giovane avvocato praticante in uno studio e quello che andrà a lavorare da McDonald's o comunque il precario in altre attività, che non tra il giovane avvocato praticante in uno studio e l'avvocato più grande? Cioè stiamo creando una separazione non più professionale ma anagrafica? Beh, io credo che la questione è questa, non è solo anagrafica, attenzione, è che non stiamo investendo in politiche che permettono di uscire dalla dimensione attuale. Questo è il punto vero è questo. Io credo e spero che uno dei temi dell'agenda della campagna elettorale dovrebbe essere questa questione qua. Mi pare che sia una questione. Ecco, aperta, ma allora lavorerebbe anagrafica? Adesso io non voglio dire nulla su nessuno, però voglio dire, abbiamo una campagna elettorale fatta con dei leader di partito che, oddio, si sentono giovani in alcuni casi, ma non è che lo siano proprio. Conta qualcosa o no? No, e conta molto, perché il vero problema, io ho l'impressione che la società che ha smarrito la propria ombra e che ovviamente delega queste questioni nel sentirsi padre o madre, ma nel sentirsi soggetto che costruisce società, no, questo è il punto. Non l'ho capita questa, Bonomi. Perché è molto semplice, abbiamo pensato fino ad oggi che queste questioni si risolvessero ancora stressando quel minimo di risorse e di risparmi delle famiglie. Ah, beh, sì, il welfare, certo. L'accompagnamento non è più pensabile. Bisogna avere politiche rispetto a questo. Bene, no, ma comunque io penso che... E quindi che... ben venga, tra parentesi, dico Barisoni, anche il confronto aspro sulla dimensione contratti, flessibilità, eccetera. Ma almeno parliamone, discutiamone, No, vabbè, non so, secondo me l'età anagrafica nell'affrontare il tema dei temi, perché quando tu hai il 37% di disoccupati nei giovani, record storico, quello è il tema, fine, perché poi il tema successivo è l'ordine sociale. Lo sappiamo. Usare il mio linguaggio è una questione antropologica a questo punto, non è più manco ecco, una questione sociale. Mi chiedo se con tutta la sensibilità che hanno Berlusconi, Bersani e Monti, forse siano così vicini a questo nuovo mondo. Tutto qua, poi magari uno potrà essere d'accordo, caparezza, forse no, ma insomma... forse l'età delle volte conta, non perché sia meglio, ma conta. Grazie Aldo Bonomi, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto comunque da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.